Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci ritrovati, parliamo di basket oggi perché campionato non c'è, siamo in attesa della finale. Martedì si parte con questo Roma-Siena che è il risultato di una lunga battaglia di playoff, però insomma siamo nel vivo di questa attesa. Stanotte alle 2 di notte gara 2 della finale NBA e quindi scaldiamo i motori e anzi lo facciamo anche con qualche aggiornamento sul Gran Premio del Canada. Finora situazione invariata, ma Vettel allunga in testa, beh anche nel corso di Palla Spicchi eccezionalmente gli appassionati di basket ci consentono qualche finestra motoristica. Allora, a proposito, 349-238-6666 per mandarci degli sms, per dialogare con noi insieme a Marianna Ballocco in redazione, Valeria Bernardi in regia. Scaldiamo appunto i motori di questa finale attesissima, direi soprattutto a Roma, perché regalo quanto mai insperato da parte di coach Calvani e dei suoi uomini per il basket capitolino. E allora subito a Roma andiamo dal nostro Fabrizio Fabbri. Ben trovato Fabrizio. Buonasera a tutti. Beh Fabrizio, già stai preparando il cuscino per metterti comodo al Palatiziano per questa serie che forse sarà anche lunga Sì, voglio dire, mettersi comodo al Palatiziano mi pare un'impresa. Bravo, però. Bravo, l'hai detta subito, infatti l'ho stuzzicato subito sul punto dolente. Perfetto, dai. Almeno non sei stato tra quelli che ieri si è fatto la fila per il biglietto, dai, vediamolo in positivo. No, assolutamente no, devo dire che sulla situazione Palatiziano-Palaeur è in corso tuttora, specialmente sui social network, partita, chiamiamolo così, a colpi di provocazioni, risposte. Ci sono un po' di cose ovviamente da tener presenti. La prima è che secondo me una finale del genere aveva assolutamente bisogno della cornice del Pala Euro, ora Pala Lottomatica. Dall'altro, la risposta della società che preferisce la bomboniera del Pala Tiziano, non solo per un discorso teorico di fattore campo, ricordiamo che in realtà Roma si è ripreso per mano la semifinale andando a vincere al Pianella, quindi voglio dire anche l'inviolabile bomboniera era stata violata in realtà da Cantù, ma piuttosto mi pare che in qualche modo Claudio Toti abbia voluto prendersi una piccola rivincita, non lo ha dichiarato, questa è una mia impressione, ma l'impressione è che lui non si è scordato lo scorso 6 luglio, quando era stato lasciato da solo per tenere in vita o meno la Virtus Roma, avevano manifestato per strada 150 persone, tutte della tifoseria organizzata, insomma ad oggi dice chi ci è stato vicino durante tutto l'anno, noi lo agevoliamo con un diciamo percorso agevolato per poter prendere i biglietti e per il resto ci sarà un maxi schermo messo fuori dal Palatiziano. Alla fine che piaccia o no, questa è la soluzione finale che ha scelto la Virtus Roma. Non esiste un problema di inagibilità del Palalottomatica, come qualcuno aveva detto, perché comunque contatti ci sono stati fra l'Euro e la società. Poi si è deciso per questa strada. Scelta discutibile, però insomma è chiaro che l'altra cornice del Paleuro avrebbe avuto un'altra appeal. Dal punto di vista tecnico è pur vero che una squadra che per tutta la stagione si è allenata tra Settebagni e il Palatiziano potrebbe trovare anche qualche difficoltà nel trovare i giusti riferimenti, non un appuntamento così importante. Non che questo gruppo non conosca il Paleuro, però forse molti anche sì dei giocatori. Ma io penso che molti di loro in realtà, Dario, lo conoscano giusto dai racconti, forse Alessandro Donolli e Datome sono gli unici che potrebbero avere qualcosa da raccontare, tra l'altro non sono pagine particolarmente felici, perché la realtà dice che la Virtus dell'era Toti è andata vicina a tante cose ma non ha mai vinto, per cui che ne sai, potrebbe essere anche un modo per esorcizzare una situazione. Io ho avuto modo di intervistare per i quotidiani con cui collaboro Jordan Taylor, lui proprio non si è formalizzato ma ha detto per me dove ci fanno giocare anche all'aperto io questa serie la voglio vincere. È la lezione di Jane Hackman, no? Tiro vincente, va lì, misura il canestro, 3,15 metri sono per noi, 3,15 metri sono per loro, ragazzi giochiamocela, sappiamo come è andata a finire. Devo dire che all'interno della Virtus ci credono molto e non è un essere sbruffoni o una pasquinata alla romana, ha iniziato da Tome a pronunciare la parola scudetto, ha continuato Marco Calvani, l'ha pronunciata ad Ercole, l'ho sentita dire a Jordan Taylor, credo che arrivati a questo punto, pur riconoscendo il valore assoluto dell'avversario, lo diceva proprio D'Ercole che è un ex Menzanino, dice il loro grande vantaggio oltre a essere una squadra assolutamente forte nei singoli è che sono abituati a vincere, questo è è un dato di fatto che è incontestabile per la Menzana. Eh beh, poi del resto Fabrizio, come dite voi a Roma, come avete detto un paio di stagioni fa calcisticamente parlando, non succede, ma se succede. Senti Fabrizio, tienici ancora compagnia, andiamo a sentire che ne pensano a Siena di questi propositi bellicosi, e speriamo solo sul campo, perché questi playoff da quel punto di vista non mi stanno piacendo per niente. Massimo Sollazzini, che sì, aria si respira nelle contrade? Ah, nelle contrade si respira un'area propizia, la Sicilia. Ti posso dire che ieri sera il sabato del villaggio, ovvero del centro di Siena, è stato vivacizzato da un torneo 3 contro 3 organizzato da una delle contrade, la contrada della Civetta, in una delle piazze principali della città. Una bomboniera che sapeva un po' di Harlem ieri sera, per questa sfida tra bella, ragazzi, bella questa iniziativa. Le contrade, che peraltro è una iniziativa in memoria di Alberto Ceccherini, che era un senese scomparso alcuni anni fa e che giocava nella Menzana Siena in quella fase tra gli anni 70 e gli anni 80, che portò appunto Siena dalla cadetteria ai primi grandi palcoscenici. Lui è stato uno di quelli che, se non era il 79 e l'80, che visse il primo grande pienone al Palasport, adesso il Palaestra di Siena, 8.000 persone all'epoca, contro una sfida di playoff, la prima sfida di playoff della Menzana Basket, contro una squadra che all'epoca si chiamava Emerson Varese. Massimo, ti chiedo però, tornando un attimo all'attualità, dalla società che segnali arrivano, perché la fine di questa serie con Varese appunto è stata infuocata, l'abbiamo visto a Varese, ma prima l'avevamo visto anche in gara 6 a Siena. Al di là delle polemiche che ci sono state e soprattutto delle decisioni del giudice sportivo, arrivano segnali concreti a mettere la testa a posto e soprattutto le mani dopo la schiena, a lasciare che siano giocatori e allenatori, al limite anche arbitri, protagonisti di questa sfida scudetto? Ufficialmente no, nel senso che Siena la Menzana Basket, il primo luogo, evidentemente ha cercato di tenere un profilo tendenzialmente abbastanza basso dopo l'epilogo di gara 7 con Varese, cercando di non prendere posizioni ufficiali per commentare ulteriormente quanto era avvenuto. Certo, la tensione è quanto mai palpabile, anche perché se andiamo anche un attimo indietro, ricordiamo tra gara 5 e gara 6 la squalifica di Brown e Hackett, poi è rientrata, e tra gara 6 e la gara 7 anche quella di Vitucci, poi era rientrata anch'essa. Certo, l'adrenalina, la tensione è molto alta ed è un qualche cosa che potrebbe anche giocare teoricamente in negativo contro Siena, anche perché è vero che Siena come società è esperta di finali, ma di giocatori che lo sono in realtà non ce ne sono poi più di tanti. È chiaramente un roster profondamente cambiato. Esatto, e i giocatori più in vista di questa fase, uno su tutti è Daniel Hackett, è uno che la finale non l'ha giocata. E quindi è arrivato a una semifinale con Pesaro, ma insomma è un'altra cosa, no? Poi giocarsela da outsider è un conto, giocarsela comunque da favorita, perché Siena arriva da favorita per esperienza, palmarès e roster, è tutt'altra cosa. Allora, io intanto ringrazio Massimo Sollazzini da Siena e il nostro Fabrizio Fabbri da Roma, li ritroveremo anche in settimana chiaramente dai rispettivi campi per raccontarci questa finale. 30 secondi d'aggiornamento proprio sulla Formula 1, siamo al 32esimo giro, Vettel, Hamilton, Rosberg, Webber, Alonso, questi primi 5 col ferrarista in rimonta che sta incalzando Webber per la quarta posizione. A proposito di macchine, beh, allora adesso spazio al traffico, poi torniamo insieme qui a Palla Spicchi. Palla Spicchi. Eccoci qua, ancora un quarticello d'ora buono per parlare di basket insieme. 349-238-6666 se volete scriverci in merito a queste finali del nostro campionato e anche di quella NBA di cui ora andremo a parlare. Stefano Valenti, ben trovato. Ciao, buonasera. Allora, caro Stefano, oggi mi sono divertito a leggere il tuo blog, sempre puntuale, sempre aggiornatissimo, Il Mio Basket Non Solo, questo l'indirizzo, andatevelo a sfogliare, voi appassionati di basket. Il pezzo di oggi però non induce all'ottimismo, Stefano, il medioevo dei playoff. Perché? Perché grande emozione nel vedere queste sfide, grande entusiasmo nell'aspettare questa finale, finale, però gli aspetti oscuri non sono mancati, a partire proprio dalla vicenda Palaeur-Palatiziano, perché come ci ha anche aiutato a capire Fabrizio Fabbri, sembra un po' un ragionamento da piccolo cortile di bottega, non c'è stato uno che è riuscito a dire una parola per allargare i confini di questo dibattito per il bene del basket, insomma. No, beh, c'è una nota del presidente Petrucci, una dichiarazione del presidente della FIBA Petrucci in cui riconosce che avrebbe avuto piacere che la finale si giocasse al Palaeur. Diciamo che Datome, Goss, D'Ercole si erano più o meno espressi nella stessa direzione. La scelta alla fine cade, come giusto che sia, sulla testa del presidente Toti. Posso capire certe logiche, magari sono quelle realmente di vedere le chance di scudetto aumentare giocando al palazzetto. Se parliamo però del dato strettamente tecnico, beh, intanto Siena ha già vinto in stagione regolare al palazzetto e Roma è una squadra che ha costruito gran parte della sua stagione sui successi in trasferta, quindi è una squadra che evidentemente sa adattarsi a qualunque campo e quindi senza dubbio può anche adattarsi al Palaeur, e secondo me la spinta di 10.000 persone è un'altra cosa, insomma. Diciamo, sono riflessioni puramente tecniche che non c'entrano con i riferimenti del campo, nulla di tutto questo. È una scelta da orticello, è una scelta che, ripeto, può essere logica, perché poi i conti in tasca se li fa Toti, ma se la logica è questa, è anche vero che allora nessun giornalista potrebbe mai criticare quello che fanno Milan, Inter e Juventus, perché guai a fare i conti in tasca alle famiglie che le rappresentano, perché chiaramente nessuno di noi è in grado di pareggiare economicamente un impegno del genere. Il vero peccato è per il movimento. Io oggi ho visto gli highlight della gara 1 di finale di Spagna, Real Madrid-Barcellona nella capitale, cioè Madrid, 10.900 spettatori, e gara 1 di finale tedesca nel bel palasport di Bamberg, che è un grande paesotto della Germania, 6.800 spettatori. Quando noi daremo alla fine i dati del pubblico di questa finale, dove ci saranno, mi auguro, sarà sempre il pienone, certo, avremo dei dati. Sì, potremmo raccontare in giro che c'è del tutto esaurito, ma è un tutto esaurito misero, perché poi il ragionamento che mi piacerebbe facessero gli imprenditori del basket è che poi quando vanno a vendere il prodotto e un qualunque sponsor o una televisione va a chiedere quanta gente c'è a vedere la vostra finale. Vabbè, certo, là poi non vai a spiegargli, guarda, persone tra Siena e Roma. Non puoi spiegargli, guarda, quello ha scelto il palazzetto, perché, per come, i numeri sono numeri. Questo è il momento dei numeri, in cui contano i numeri. Il basket, purtroppo, con questa scelta, sempre nel ragionamento che sia veramente un bene comune, purtroppo il basket sconterà questa decisione. Eh sì, Stefano, beh, speriamo, insomma, di non scontare e di non rivedere quantomeno le immagini e anche le intemperanze che hanno segnato questi playoff. Dall'altra parte dell'oceano non hanno questi problemi, Flavio Tranquillo, immagino bibitone del caffè già pronto, perché stanotte gara 2 e quindi siamo tornati a farci le nostre belle nottate. Giusto? Sì. Credo che il problema non ce l'abbiano, credo che abbiano il problema di indovinare cosa succederà stasera, che è un bel problema perché è molto affascinante. La serie, direi, comincia stasera, è cominciata grazie alla vittoria in trasferta di San Antonio, ma adesso comincia ufficialmente stasera. Eh sì, anche perché ho visto un LeBron tutto sommato tranquillo, a parte per quello che ha fatto vedere in campo, che poca roba non era, a parte anche, va bene, chiaramente delle amnesie, però nelle dichiarazioni soprattutto di queste ultime ore ha detto, nervi d'acciaio, tutti calmi, siamo appena all'inizio. Però questo gara 1 qualcosa l'ha detto, no Flavio? Ma ha detto molte cose, ha detto che gli Spurs sono pronti, ha detto, come ha confermato LeBron James, che sono la squadra numero uno nell'NBA per punire gli errori degli avversari o le indecisioni degli avversari, ha detto che gli Spurs hanno un sistema di gioco che funziona anche quando non necessariamente fanno il 60% su 25 tiri da tre punti, hanno sbagliato tanti tiri buoni. Però questo discorso vale anche dalla parte di Miami. Adesso da gara 2 in poi cominciano gli aggiustamenti tra squadre che si conoscono poco, e per quello intendo comincia stasera la serie. Ecco, c'è questo rebus che deve sciogliere Miami, la marcatura di Parker. Era un po' inevitabile immaginare che in alcune azioni, soprattutto quelle chiave, ci sarebbe andato lo stesso LeBron, però serve forse una soluzione un po' più strutturata, no? Sì, non tanto relativa alla marcatura individuale, nel senso lo marca Chalmers, lo marca Cole, lo marca LeBron James, perché quello è un discorso non tanto relativo a una questione di uno contro uno. Certo. LeBron James è il miglior difensore del mondo, ma se deve fare uno contro uno difensivo con tutto il campo a disposizione, Parker non lo può marcare, e certo, viceversa nessuno può marcare LeBron James. Parker e LeBron James sono due dei 15-20 giocatori NBA che uno contro uno non si possono tenere. Puoi fare delle scelte di un certo tipo, quindi se per strutturato intendiamo difendere di squadra, sono particolarmente d'accordo, e il difendere di squadra dipende in maniera, non dico infinitesimale, ma sicuramente ridotta rispetto all'immaginario collettivo, da chi c'è in prima battuta sulla palla. Quale può essere la chiave di questa gara 2, Flavio, di quello che andremo a vivere fra poche ore? Ricordo appuntamento ore 2 italiane, sempre su Sky Sport ovviamente. Ma direi due chiavi. La prima chiave, il numero delle palle perse degli Spurs. Se fanno un'altra partita da 4 palle perse è molto dura per Miami e anche per la nazionale di Marte. La seconda chiave, quello che succederà nei primi due quarti, da un punto di vista di orientamento della partita per LeBron James, ovvero sia se LeBron James continuerà a fare la cosa giusta, che significa quando vanno in due o in tre o in quattro contro di lui mettere in azione uno dei suoi tiratori esterni, oppure forzare un po' l'assunto per vedere l'effetto che fa, perché non mi stupirei anche di vedere in una partita di questa serie, magari stasera, se c'è una eventuale mala parata, LeBron James che se la batte con due o tre direttamente lui. Senti, proprio al volo mi avanzano 5 euro, che dici, me li gioco su Messina allenatore dei Nets? No, direi di no, purtroppo no. Niente da fare, quindi ci ricarico la chiavetta e offro il caffè ai colleghi, dai, facciamo così. Esatto, e magari esatto. T'aspetto anche in studio per fare parte appunto della caffettata. Flavio, tranquillo. Volentieri. Grazie, buon commento stanotte, ci ritroviamo domenica prossima sempre a Pallaspicchi. Grazie a Marianna Balocco in redazione, Valeria Bernardi in regia. Io resto a farvi un po' di compagnia perché c'è il Gran Premio di Montreal che entra nel vivo.